Buonasera a tutti, parlo dal microfono ma non mi sentite comunque amplificato. Questo non è un giochino, ma in realtà è perché siamo in diretta a Radio ZAM. E quindi un grande applauso. Quindi buonasera a tutti e tutte, anche a chi ci sta ascoltando online. Questo è il primo dei tre appuntamenti di Andiamoci Piano della seconda edizione. Seconda edizione perché la prima edizione, cioè l'esperimento, evidentemente è ben riuscito, è piaciuto, cioè quello di portare un po' di musica classica o diversa, ecco, all'interno di questo bellissimo spazio. Ne stavo anche parlando prima con Yuna. Secondo me la musica nasce dalle persone e questo diciamo che è il posto che rappresenta di più una comunità, e le persone proprio. E quindi forse potremmo anche collegarci tranquillamente a tantissimi vari esempi anche nella storia della musica. Per esempio, Brahms stesso ha suonato tantissimo nei pub, nei vari locali notturni ad Amburgo dove stava da ragazzo, o tantissimi altri musicisti, comunque anche Mozart stesso, no? Cioè, quindi il contatto con la comunità direi che è il punto di incontro, forse anche col fatto di portare un po' di musica chiamata classica, ma sempre musica all'interno di un centro sociale. E questa sera abbiamo il grandissimo onore e piacere di avere una musicista, una pianista che viene dal Giappone, sta imparando l'italiano ed è qui perché appunto si sta perfezionando con un maestro molto importante che le ha dato il motivo per cui anche rimanere qua in Italia, che è Konstantin Boghino, un maestro russo della scuola russa. Lei è venuta qua in Italia e ha studiato a Budapest, sì, all'Accademia Liszt, e poi all'interno di vari concorsi ha conosciuto questo maestro russo con cui adesso si sta perfezionando a Biella, all'Accademia Perosi. Ma non solo è studente, nel senso che continua ovviamente un percorso di ricerca musicale come tutti i professionisti che si rispettino, ma appunto è una pianista professionista perché è vincitrice anche di numerosi concorsi nazionali e internazionali, direi più internazionali, e fra cui per esempio l'ultima edizione del concorso Kawai, che è una marca di pianoforti. Nel 2022 e per esempio recentemente ha tenuto anche un concerto privato allo showroom della Kawai per Shigeru Kawai in persona che è venuto qua in Italia a visitare i vari centri e lei era la pianista che ha omaggiato, diciamo, questo importante personaggio dell'ambiente musicale giapponese. E il programma di questa sera spazia da Debussy con lo studio per le quarte, al Benis, poi si passa a, prima di Rachmaninoff, a Liszt col Mefisto Walzer e infine la grande sonata di Rachmaninoff, la seconda sonata per pianoforte solo. È un programma non lunghissimo, grosso modo sarà sulla quarantina di minuti. Però diciamo che è molto variegato dal punto di vista degli approcci tecnici allo strumento, cioè passiamo dal Beniz, scuola spagnola, diciamo, quindi a Debussy con queste sonorità francesi molto delicate e anche un pianismo quindi molto raffinato, poi Liszt, il grande sfoggio tecnico del Mefisto Waltz e infine Rachmaninoff di cui ricorre quest'anno il centenario, mi pare, dalla nascita. Esatto, dalla nascita. Ed è nato proprio ad aprile del 23. No, è morto dalla morte. Esatto, del 23. 1923. 2023. Ci siamo arrivati, per fortuna. Non me l'ero preparata, non ho guardato bene la data, però ricorre un anno molto importante per Rachmaninoff. Tant'è che appunto alla Verdi hanno proprio fatto un festival interamente dedicato a Rachmaninoff, dove 150 dalla nascita, ecco, ok, 150 dalla nascita, quindi, e hanno fatto appunto l'integrale dei concerti perché hanno fatto orchestra di Rachmaninoff, appunto. Quindi, per parlarci dei singoli brani, ci sarà Eric, giusto? Che ci introduce al concerto. Vabbè, in realtà più o meno ha letto tutto Daniele, però ripercorriamo un attimo. Allora, il primo brano, appunto, lo studio per le quarte di Debussy. Debussy è francese, inizio del XX secolo. Secondo me la cosa più interessante di questo studio è l'amore di Debussy per l'esotico. Infatti lui era stato nell'89 all'Expo, quello della Torre Eiffel. Fecero un Expo in cui costruirono anche la Torre Eiffel e in quell'occasione ebbe modo di conoscere anche culture da tutto il mondo, ovviamente, essendo l'Expo. E rimase colpito in particolare dalle orchestre orientali, con questi strumenti appunto che non si erano mai visti da noi, l'uso di certe scale, l'uso di certe sonorità. E questo studio, che è uno studio per cui è un brano molto complesso tecnicamente, ma è anche uno studio di ricerca musicale. Vuole richiamare in certi passaggi questa musica orientale, queste atmosfere appunto lontane per quello che poteva essere all'epoca la Francia del suo periodo. Poi il Mefisto Waltz, come diceva Daniele, è grandissimo sfoggio di tecnica, ma soprattutto di carattere. Infatti, se pensiamo a Mefisto, al diavolo, ci viene in mente Goethe, e infatti Liszt sicuramente cita questo grande romanzo. E il carattere è appunto quello del diavolo, per cui un po' subdolo, a volte un po' romantico, ma che si nasconde dietro una falsa, un falso amore, diciamo. È sempre abbastanza insinuoso e in certi momenti anche aggressivo. Insomma, ci sono molti caratteri di quello che noi potremmo pensare essere il diavolo. Dopodiché ci sarà Albéniz spagnolo, e in questo brano vuole rappresentare i suoni, i colori di una festa spagnola, una festa santa in onore del patrono della città di Siviglia. E quindi anche qui campane, insomma, effetti anche proprio onomatopeici che riproducono gli strumenti della festa, delle bande, diciamo. E alla fine Rachmaninoff con la sua grande sonata, articolata in tre movimenti, e diciamo la cosa più interessante forse è questa evocazione del mondo russo, queste melodie appunto popolari quasi, che arrivano dalla tradizione russa. Anche qui ovviamente un grandissimo uso del pianoforte come strumento portato al limite delle sue capacità tecniche e virtuosistiche. Infatti Rachmaninoff stesso è stato un grandissimo pianista, eseguendo le sue musiche e musiche di repertorio. Il primo movimento è molto, molto concitato, anche all'inizio ci sarà subito una grande discesa verso il registro basso e un grande squillo di tromba che risponde nel registro alto. E diciamo su questo tema poi tutto il movimento viene costruito. Il secondo è una melodia molto dolce che viene in forma di variazione, per cui la sentiamo prima pulita e poi sempre più elaborata. E il finale è un gran finale di energia e di vigore. Buon ascolto. Thank you. Thank you. Thank you. apprezzato, ma sembra di sì. Sembra che sia piaciuto. E, grazie anche perché appunto cioè, sei anche una persona molto generosa e ci hai regalato questa bellissima musica questa sera. E, Takemitsu è venuto a mancare poco tempo fa, immagino. Mi pare di ricordare. Forse possiamo essere più precisi magari anche sull'autore, però è un compositore contemporaneo, anche molto conosciuto e anche molto importante, diciamo, ecco, che ci ha lasciato abbastanza di recente, quindi quello di Yuna sicuramente era anche un omaggio personale. Vorrei anche ringraziare la nostra carissima Martina, che comunque, cioè, è stata fantastica nel... Vieni, vieni, vieni, vieni Marti, vieni. Nell'accogliere queste idee folli, e grazie a tutto il collettivo ZAM per averla votata e accolta. E grazie anche a chi abbia mai donato questo pianoforte, non so, ecco. Un'associazione che si chiama BIR. Ok, un'associazione che si chiama BIR e che ci dà appunto la possibilità di poter fare questi progettini. E il prossimo appuntamento di questa seconda edizione di Andiamoci Piano sarà il 23 di giugno. Sempre alle 19 con aperitivo e poi alle 20 col concerto. E faremo un programma io al pianoforte e una violista alla viola, non un altro strumento, ma alla viola. E molto probabilmente eseguirò Bach nella prima parte e poi faremo dei brani di Schumann per viola e pianoforte. E a seguire poi ci sarà il 14 luglio un concerto con il mitico Eric Tornabene, col quale magari faremo anche un po' di quattro mani, lui magari suonerà anche qualcosa da solo, e poi avremo anche il piacere magari di avere anche dei ragazzi, degli studenti, sia io che Eric insegniamo alla Scuola Civica di Musica di Rozzano e al Conservatorio di Pavia, e durante l'estate. L'anno scorso abbiamo organizzato delle lezioni estive, dei seminari, e magari chi ci sarà, lo porteremo qui e ve lo faremo sentire. Ok? L'invito a chi vuole suonare o vuole spargere la voce che a pianoforte, cioè che a ZAM c'è un pianoforte, cioè nel senso che è un pianoforte che è qui apposta, noi vogliamo che la musica classica attraversi qualsiasi luogo, soprattutto un luogo come questo, quindi siete invitate e invitati a partecipare attivamente e a raccogliere adesioni di qualsiasi tipo, ok? Grazie a tutte e a tutti. Grazie, Yuna!